La maschera vuol dire l'atteggiamento che noi abbiamo esterno, magari di benevolenza, quando in realtà non siamo affatto. Quindi nascondiamo i nostri veri sentimenti. Di solito non è che nascondiamo i sentimenti d'amore, nascondiamo quei sentimenti di cui ci vergogniamo e che ci potrebbero cagionare dei rifiuti. E quindi cos'è che la maschera serve? La maschera serve a coprire questa roba qua. Quindi, quando dico che questo contamina, occupa, in realtà questo rimane sempre di solito in adulto. Per cui, quando l'adulto dice come mai hai fatto così, accento giustificazione. Ho fatto così per questo e quest'altro. Ecco. Quindi, di solito, il narcisismo in un adulto comunque sano utilizza anche lui equivalenti aggressivi. Non è che prende una zappa e te la dà in testa. Usa delle parole, usa delle cose che sembrano giustificate in base al contesto. E comunque fa del male.